Siamo un paese buffo perché passiamo dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle ad una velocità straordinaria. E molto dipende dalle personalità che ci guidano. Oggi, se lei va in giro per l'Europa e anche per gli Stati Uniti, se prima ci chiedevano: ma questo inverno ci avete un cibo per passare l'inverno o no? Ma così le chiedevano? Ma quasi, se ci avevamo la luce in casa, ora esagero, però era abbastanza forte la preoccupazione nei confronti dell'euro, dell'Italia, eccetera. Oggi siamo immediatamente, e io non dico esageratamente, mi piace questa voglia d'Italia, questo ottimismo italiano, un minimo abbiamo recuperato tantissima credibilità e, come dire, ci abbiamo anche a capo una persona che fa i compiti a casa, che quando parla sa cosa dice e soprattutto quando va in Europa sa come funzionano le regole. Sì, che fa i compiti scritti, perché come diceva un vecchio finanziere scomparso, Giovanni Svetlic, qua in questo paese siamo molto bravi in orale. È vero. Diceva lui, no? E invece bisogna anche studiare lo scritto, non so essere bravi solo in orale. Vabbè, la classe politica, ma non solo, non solo. Detto ciò, quindi lei nota, perché sa, quando si vende Made in Italy, è vero che la prima cosa del Made in Italy è la qualità, il lavoro industriale, ma fatto con una precisione artigianale, con una qualità artigianale che riusciamo a fare solo noi, però si vende anche Made in Italy, cioè si vende anche Italy, no? Allora è difficile vendere un paese che non gode di credibilità. Lei nota che c'è stato un brusco cambio di rotta in senso positivo in questo caso? C'è stato un brusco cambio di rotta. Quello che mi dispiace è che oggi non si possa elaborare un progetto di lungo periodo per l'Italia, di cosa rappresenta l'Italia nel 2015 nel mondo. Questo è un po' il peccato, perché sarebbe molto bello, dopo aver curato l'emergenza, veramente raccontare cosa rappresenteremo noi nel mondo tra un po' di anni.